Ma cosa mi sta succedendo? Io sono sempre stato un bravo scienziato, ho sempre fatto quello che mi hanno detto di fare. Non può succedermi questo, non voglio diventare un mostro, io sono bravo, bello e buono. Amo questo sistema sociale, i miei superiori mi stimano. Lo vuoi capire o no? No, che non ci sto. Prima, ma sì, lo so, ero senza però, tiravo il tuo riscio, un gran bravo capo, c'è stato un qui pro quo. Mio figlio non studiò, la scuola lui lasciò, fa il gigolo a un rondo, per comprare dei palto, videogiochi e merlo. Scienziato perdente che non capiva niente, ora è impaziente di darti un pugno fendente. Hai un brutto ascendente, sogni adolescente, mio figlio voglio esente. Il tuo sistema demente divento duro e puro, di pelle verde e scuro, perché non c'è futuro nel consumismo oscuro. Il suo servo acquiescente ha reazioni violente, ma lo riprenderò, via me lo porterò e ne farò un falò del tuo mondo vudù. Lo vuoi capire o no? Io tutto staccherò. Lo scienziato perdente che non capiva niente, ora è impaziente di darti un pugno pendente. Hai un brutto ascendente su ogni adolescente, mio figlio voglio esente dal tuo sistema demente. Divento duro e puro, di pelle verde e scuro, perché non c'è futuro nel consumismo oscuro. Il tuo servo acquiescente ha reazioni violente. Lo vuoi capire o no? No, lo vuoi capire o no? Lo vuoi capire o no? Lo scienziato perdente che non capiva niente, pura e impaziente di darti un pugno pendente. Hai un brutto ascendente su ogni adolescente, mio figlio voglio esente dal tuo sistema demente. Divento duro e puro, di pelle verde e scuro, perché non c'è futuro nel consumismo oscuro. Il tuo servo acquiescente ha reazioni violente, lo vuoi capire o no?